dovrebbe essere l'inizio, il primo impatto per iniziare una discussione anche intellettuale su una tematica. E quello ci auguriamo, è anche il motivo di questo libro che riesce anche a suscitare una discussione intellettuale, non solo intellettuale, anche di tutti, una discussione proprio su questa tematica che in attuale già è un problema fino adesso non risolto. Anche il libro non lo risolverà, no. Quello di quello siamo ben coscienti, però sarà un primo passo e basta, do la parola a voi che parlate del libro, che lo presentate e presentate anche il contenuto. Grazie. Vi ringraziamo della vostra cospicua presenza. Io cercherò di modellare il mio ruolo proprio come dice la dizione, insomma, che mi qualifica, ovvero di moderare questa serata. Presento subito i due autori, che sono alla sinistra e alla destra, Stefano Faith e Mauro Fattor. Mauro Fattor è noto al pubblico dei lettori dei quotidiani locali perché è responsabile delle pagine culturali dell'Attuale, giusto? Giusto. E invece Stefano Faith fa di professione antropologo e si occupa anche di politica, però con un approccio, diciamo, più culturale. Allora, io non so quanti di voi abbiano letto il libro, chiaramente una discussione sulle cose stesse avrebbe senso, sarebbe più vivace se il libro fosse stato letto. Se non è stato letto, cercheremo adesso, nei limiti temporali, insomma, che abbiamo a disposizione, di chiarirne perlomeno le ragioni della stesura, la struttura e che cosa questo libro vorrebbe suscitare. Io il libro l'ho letto, gli ho dedicato anche una recensione abbastanza critica. Ciò significa che è un libro che vale la pena di essere letto, perché se suscita una posizione critica, e mi immagino che potrebbe suscitare anche invece posizioni di adesione molto, molto cospicua, significa che è un libro che divide, è un libro che suscita discussione, e questo sarebbe anche auspicabile avvenisse oggi. Io faccio una domanda che potreste palleggiarvi in qualche modo, cioè magari mi risponde prima uno, poi mi risponde l'altro. Prima di tutto una curiosità, perché avete deciso di scrivere un libro sui miti etnici, anzi contro i miti etnici, proprio adesso, cioè in questo periodo, e perché avete deciso di farlo insieme? Cioè, come è nata l'idea del tandem, praticamente. Do prima la parola a Mauro Fattor, anzi no, siccome siamo ospiti, perché Stefano Faith viene da Trento, ha un lungo viaggio dietro di sé, non trovava la biblioteca, quindi... Questa cosa a proposito di... Allora, sì, perché un trentino si dovrebbe mettere a scrivere un libro sulla Toscana? Perché in Trentino, un libro sul Trentino non verrebbe pubblicato, un libro così, ecco. Vabbè, tragicamente forse è vero, al di là della battuta. Comunque, io tengo famiglia qua, come forse qualcuno saprà, quindi ho dei legami con la popolazione locale e amo la terra, che non, voglio dire, si può non amare l'Alto Adige. E ho avuto la possibilità nelle mie varie avventure, nelle mie varie esperienze di vita nel mondo, di incontrare sudtirolesi e altoatesini all'estero, e fondamentalmente l'idea di farlo adesso, che era poi questa la mia, nasce dal fatto che sono sostanzialmente piuttosto pessimista, sono antropologicamente ottimista, Il che vuol dire che ho una gran fiducia nei confronti degli esseri umani in generale, a dispetto del, di un certo cinismo dominante e sorpreggiante. Però sono storicamente pessimista. Ovvero sia, io onestamente, a dispetto di quel che sostengono certi statisti di caratura internazionale, non ritengo che usciremo da questa crisi in 448. Mi aspetto che i prossimi 10-15 anni saranno tosti. E siccome a livello globale, e siccome mi aspetto questo, e me lo aspetto già da un po', e siccome so per formazione, per esperienza di vita, che nel momento in cui c'è una lotta per le risorse, grande incertezza, nasce il sospetto, nasce il risentimento, si può esprimere secondo in direzioni religiose, di fondamentalismo religioso, come negli Stati Uniti, se avete visto, 7 pazzi furiosi, perché non saprei come definirli, sono stati eletti alle primarie come candidature per i repubblicani negli Stati Uniti. Sono persone che non so se vi siete informati, ma è incredibile, incredibile, incredibile. E va bene. E se succede negli Stati Uniti può succedere ovunque, onestamente, una cosa del genere. Quindi questo libro non è stato fatto e non è stato scritto adesso perché c'è veramente un enorme problema attuale. Io non ci credo che ci sia questo enorme problema. Non è così grave. Avete molto, ma molto, ma molto più in comune di quel che vi ci divide. È in prospettiva il problema, per come lo vedo io. Questo libro è stato fatto preventivamente perché servisse per fornire un po' di luce nel momento in cui, just in case, come si dice in inglese, non è detto che succeda niente, però se dovesse succedere qualcosa, il libro c'è. Perché con l'amico? Perché sono trentino e serviva qualcuno del luogo. E poi perché lui mi ha scoperto, perché senza di lui io non sarei mai entrato nel mondo del giornalismo. Io a un certo punto a Malé ho fatto un intervento, riguardava questo argomento qui, e anni fa, e lui l'ha letto e l'ha pubblicato, e gli ha dato un paginone, gli ha dedicato un paginone in cultura sull'Alto Adige, e da lì ho capito che quel che dicevo poteva essere di rilevanza generale, poteva interessare, poteva essere letto. E siccome lui sostanzialmente aveva un approccio molto simile al mio, mi è sembrato naturale di chiedere a lui di farlo in tandem, perché in ogni caso i problemi bisogna guardarli da prospettive diverse, e quindi era utile avere un'altra persona. All'inizio doveva essere addirittura 4, adesso siamo rimasti in 2 perché è sempre difficile coordinare queste cose. Ecco, scusate. Grazie. Io adesso do la parola subito a Mauro Fattor, e specifico ulteriormente la domanda, perché Stefano si è tenuto abbastanza sulle, diciamo, sulle generali, e ha detto in previsione, non just in case, il vento, venti tempali che soffiano in modo violento altrove possano manifestarsi anche qui, questo potrebbe essere, diciamo, un deterrente, potrebbe essere una sorta di guida per uscire dal tunnel prima che il tunnel sia stato imboccato. Così, no? Riassunto. Invece a Mauro Fattore vorrei che entrassero più dentro anche il titolo, no? Perché qui c'è scritto contro i miti etnici, però alla ricerca di un Alto Adige diverso. L'Alto Adige diverso significa che l'Alto Adige attuale non ci piace, cioè che è un Alto Adige non solo criticabile nell'ipotesi che just in case, ma l'attuale, cioè quello che, in cui viviamo adesso, non ci piace. Quindi ne cerchiamo uno diverso. Ciò significa che anche se i problemi non sono drammatici, esiste una situazione problematica per cui vale la pena scrivere un libro contro questa situazione problematica. Se tu ci volessi per cortesia tracciare con incisività e con, insomma, vividezza i contorni del problema sul quale voi vi siete applicati, e tu in particolare nella seconda parte, che stringe di più, diciamo, le viti sulla che viene più al punto e affronta con maggiore sottolinea maggiormente la situazione locale. Beh, la constatazione, diciamo che il libro è lo sviluppo di una cosa che avevamo già fatto per la Società di Scienze Politiche Altoatesine e nasce da un nucleo di domande. Le domande sono queste, cerco di essere sintetico così poi stringiamo appunto come giustamente hai chiesto. A 40 anni dal secondo statuto e più o meno a 20 anni dalla quietanza liberatoria, la situazione altoatesina offre un quadro in cui non è nato, diciamo così, semplificando le cose al massimo, non è nato nulla a sinistra della Volkspartei, ovvero l'area interetnica, quella più progressista, quella più, diciamo così, più disposta all'incontro dell'altro, è rimasta esattamente nelle dimensioni che aveva 40 anni fa. Da lì non cresce, non diminuisce, a un 7-8%, due consiglieri, e quell'area lì è inchiodata lì da 40 anni. E allora, invece è cresciuto un forte consenso a destra della Volkspartei, che oggi rappresenta un 20%, dentro la Volkspartei hanno perso consenso, hanno perso peso politico i rappresentanti dell'ala sociale, quindi assistiamo a quello che può essere complessivamente considerato uno spostamento a destra dell'asse politico del mondo di lingua tedesca. E questo appunto a fronte di una situazione di consolidamento delle garanzie statutarie, di rafforzamento del quadro di riferimento, per cui ci si sarebbe dovuti aspettare semmai un processo contrario. Aumentano le garanzie, aumenta la consapevolezza del proprio Stato e a fronte di una situazione economicamente votata, diciamo così, ad un benessere piuttosto diffuso. Quindi a fronte di questo consolidamento delle garanzie invece non si sviluppa nulla che cerchi di spingere i gruppi l'uno vicino all'altro, e si sviluppa molto a destra del partito di raccolta. Questo è il punto di domanda. Allora, la domanda che ci siamo fatti è questa: siccome questo è una contraddizione apparentemente, quali siano, la domanda che ci siamo fatti, abbiamo provato a indagare avendo come ipotesi che la radice di questo cambiamento dello scenario non fosse di tipo politico, ma fosse sostanzialmente legata a delle scorie di tipo culturale. Questo, nel concreto, è abbastanza curiosa una cosa. Analizzando i programmi elettorali di tutti i partiti di lingua italiana, di lingua tedesca e di lingua ladina delle elezioni provinciali del 2008, ho notato una cosa che è abbastanza stravagante. Cioè, è abbastanza stravagante. Qualcuno ha detto, ma i programmi dei partiti non contano niente, perché quelle sono chiacchiere. Certo, sono chiacchiere, ma è interessante perché sono fatte prima di sapere se ti voteranno, quindi sappiamo come funzionano, sono delle esche in qualche modo, per cui si desume che chi le offre al potenziale elettore le ritiene seducenti in qualche modo, quindi esprimono quello che immaginano l'elettore possa o voglia sentirsi dire, o comunque una parte del suo li rappresentino in qualche modo. Allora, la cosa abbastanza stravagante è che in tutti i partiti di lingua italiana, in un mondo che ha sicuramente una percentuale di bilinguismo minore rispetto al gruppo di lingua tedesca, allora tutti i partiti di lingua italiana, con l'eccezione di Unitalia, che ha un richiamo chiaramente nazionalista, ma che è anche molto marginale dal punto di vista della rappresentatività politica, il multilinguismo, il multiculturalismo come obiettivo e come ricchezza della provincia di Bolzano sono unanimemente consegnati ai potenziali elettori come un punto di forza. Se noi isoliamo le parti, e questo senza molta differenza tra destra e sinistra, se isolando le parti in cui questo viene detto esplicitamente, si fa fatica a distinguere dov'è la Lega Nord, dov'è, quali sono i Verdi, qual è il PD, ecco, quindi c'è questa prospettiva, questa vocazione multiculturale e votata al plurilinguismo come ricchezza di questa terra, nei partiti di lingua italiana è presente in modo trasversale. Ripeto, questo non significa nulla rispetto a quello che poi i partiti fanno nel concreto, però significa che tutti i partiti ritengono seducente questa idea rispetto ai propri potenziali elettori. Allora, nei partiti di lingua tedesca, che sono invece quelli che rappresentano un mondo che è sicuramente più bilingue del mondo di lingua italiana oggettivamente, questo non compare mai in nessun programma. In nessun programma il multilinguismo, il pluriculturalismo sono considerati dei punti di forza e degli obiettivi da dover perseguire per quanto riguarda le politiche della provincia di Bolzano. È abbastanza scontato che addirittura in alcune Union Freiheitlichen si fa fatica a capire che si vive in una realtà multilingue, ma anche nella stessa Volkspartei il rafforzamento degli scambi culturali è inserito curiosamente nel capitolo in cui si parla del rafforzamento dell'identità ladina, per cui viene considerato utile aumentare i contatti con il gruppo linguistico italiano. Ecco, quindi abbiamo evidenziato che esiste questo strabismo e questa asimmetria, questo strabismo, per cui ci siamo chiesti e abbiamo provato a rispondere in questo senso quale fosse la matrice culturale, perché questo è il tema di fondo che porti oggi a questa strana situazione. Ok, io mi riaggancio subito e faccio un piccolo riassunto anche per comodità della discussione. Devo posto la questione dell'urgenza, diciamo, apparentemente stiamo bene, non sembrano questi problemi. Tu invece hai detto, voi avete detto, no, stiamo bene fino a un certo punto, esistono delle scorie di ordine culturale, che poi praticamente sarebbe il discorso sui miti, cioè la mitologia o l'ideologia, e queste scorie non hanno permesso che l'autonomia si sviluppasse come avrebbe potuto e dovuto, visto che il conflitto insolido è stato sedato. E questo si è manifestato in questa simmetria, per cui da una parte abbiamo un gruppo linguistico tedesco che continua a vivere immerso in questa ideologia della conservazione identitaria, eccetera, mentre gli altri sarebbero più disposti all'apertura. In questo momento. Nonostante però, appunto, qui ci sia una complicazione, i tedeschi più chiusi formalmente sono quelli che poi si destreggiano meglio nelle due lingue, mentre gli italiani più aperti sono più restii. Questo è un paradosso assolutamente interessante. Io passo, degno di essere discusso anche in plenum, come si dice. A Stefano vorrei chiedere una cosa, tanto per far capire un po' il nucleo teorico dal quale parte. Io, come sai, ho ravvisato nelle pagine che tu hai scritto una qual forma di utopismo, di pensiero utopistico, per cui tu, poggiando chiaramente su buone e ottime letture antropologiche e filosofiche, come un cavaliere medievale, non un cavaliere postmoderno, con la lancia hai detto che l'identità fondamentalmente non esiste, è una costruzione appunto mitologica, i gruppi non esistono, cioè i gruppi sono astrazioni che possono svolgere ovviamente un ruolo politico, però quello che conta è l'individualità. E quindi tu addirittura suggerisci di disfarsi di questi cappotti ingombranti che hanno in qualche modo che nascondono appunto l'individualità nella sua puntualità e irriducibilità a forme più generali come sono i miti, ma addirittura l'individualità tu la vedi già come multiforme in se stessa, cioè ogni individuo è già nel suo interno una molteplicità. Questo discorso teoricamente non fa assolutamente una piega, è assolutamente ovvio, però è anche ovvio che qui la definizione dei due gruppi in quanto gruppi non è solo una costruzione mitologica dei cattivi politici, eccetera, nasce anche dal basso, è nata da una situazione storica in cui proprio la definizione dei gruppi ha permesso che perlomeno ci si parlasse e non ci fosse una degenerazione, perché in fin dei conti l'autonomia dà a questo e dà a quelli ma li deve considerare come gruppi. Ora io ti chiedo proprio in sostanza, come puoi pensare di proporre questa ricetta di liberarsi dall'identità di gruppo in una terra che invece si fonda proprio sulla, come dire, il benessere si fonda sull'equilibrio tra i gruppi. Se li facciamo completamente sparire e pensiamo di evidenziare una individualità al di là dei gruppi, non rischiamo di distruggere tutto? E allora? Meglio. Meglio. Che problema c'è? Non ci sarà il diluvio. No, allora, innanzitutto, io sto parlando in italiano, non sto parlando in tedesco. È evidente che una ragione c'è. Non è che posso fare uno switch da inglese, tedesco, francese, spagnolo, così. Le lingue ci sono. Ne sto parlando una invece che un'altra. E il punto di questo titolo è un tantino diverso. Intendo dire che il mito, come lo intendo io e come credo lo intenda anche Mauro, però ci tengo a sottolineare il fatto che siamo partiti da punti di vista e prospettive diverse, perché questa era l'idea, di vedere il problema da punti di vista diversi. Il problema del mito è che se ci si crede fermamente, può, come chi conosce Jung probabilmente sa degli archetipi, lui li intendeva come delle forme mentali vuote di contenuto che facevano in modo che ogni individuo, che fanno in modo che ogni individuo percepisca la realtà e se stesso, la propria identità, in un certo modo e non in un altro. La mia idea di mito è di questo genere qui, infatti all'interno del testo li chiamo golem, cioè sono delle creazioni non spontanee, perché senza l'umanità non ci sarebbero, che vengono prodotte per aiutare, in teoria per aiutarci, come il golem. Se avete presente la storia del golem di Praga, che viene creato e poi a un certo punto si ribella, prende una, come Frankenstein, c'è sempre questo mito che gira. Ecco, i miti hanno questo potere, questi miti etnici, come i miti religiosi, eccetera, di fare in modo che i nostri cervelli non percepiscano più la realtà e l'interazione con gli altri in una maniera obiettiva. Già di base, purtroppo, i nostri cervelli non sono modellati in modo particolarmente brillante da questo punto di vista, non siamo in grado di uscire dal nostro egocentrismo. Ora, poiché io come Tolstoi credo che l'egoismo sia veramente il male in noi, quel che ci impedisce di essere felici come potremmo essere, il fatto di aggiungere forme di egocentrismo, di egoismo su scala più ampia, che in qualche modo dovrebbero mascherare quel che è la vera radice del problema, cioè l'egocentrismo personale, è di per sé un male. Ci impedisce di vedere la realtà com'è, ci impedisce di rapportarci agli altri come potremmo, ci impedisce di essere veramente esseri umani. Questi miti ci riducono a antropoidi. Non so se ho usato questo termine, probabilmente sarebbe incomprensibile. Non siamo ancora veramente esseri umani finché siamo vittime di questi miti. Ora, è possibile uscire dalla logica dei miti etnici, dei miti religiosi, dei miti nazionalistici, dei miti culturalisti, di qualunque cosa? Sì, è possibile perché, al di là dell'utopismo, io ho fatto degli esempi di società nelle quali non c'è questa stessa fissità, questa stessa stabilità, in cui gli individui giocano con i miti. Io non voglio che scompaiano necessariamente, non mi sto rivolgendo alla popolazione locale per dire attenti a voi, se non me ne liberate è la fine. Non è così, ovviamente. Io mi sto rivolgendo solo a una parte, a quella parte della popolazione, specialmente a quella parte di popolazione che già gioca con questi golem, quella parte di popolazione che sa che quello che adesso sembra inevitabile, un presente che sembra inevitabile, non lo è, perché già loro ci scherzano, già loro si rapportano agli altri autoironicamente. Questa autoironia che c'è in tanti misti lingue, ma non solo, è già un'ottima soluzione, già un'ottima via di fuga da questa servitù, da questo asservimento intellettuale, cognitivo, ai miti. E io ho vissuto in Canada e in una città come Vancouver ci sono dei quartieri che sono cinesi, dei quartieri che sono indiani, con la segnaletica bilingue in cinese e in inglese, e in indiano e in inglese, e poi altre zone invece con maggiori concentrazioni europee, tra virgolette. E tuttavia, laddove magari ci si aspetterebbe di trovarsi in una situazione molto simile a questa qua, anche perché è noto che magari gli indiani e i cinesi effettivamente per ragioni sociologiche tendono un po' alla strutturazione in claniche, però il problema non si poneva, c'erano tantissime coppie miste e c'era una ottima, non perfetta ovviamente, siamo esseri umani, un'ottima capacità di sdoppiarsi, moltiplicarsi, di prendere ruoli diversi, lì veniva fuori veramente la variegatezza dell'essere umano in sé, della personalità umana, e non che non ci fossero correnti xenofobiche, ovviamente la presenza massiccia asiatica crea dei problemi, non c'è alcun dubbio questo. Però non c'era assolutamente l'idea che questa localizzazione separata geografica, zonizzazione all'interno della città, potesse essere null'altro che una scelta che si fa al momento, quando si nasce, poi uno può fare quel che vuole, si trasferisce dall'altra parte, sulla costa atlantica, si trasferisce in Europa, non c'è un radicamento necessario. Si nasce lì perché il tuo clan è lì e poi vai a scuola con chiunque, ti metti insieme con un musulmano o diventi amico con un latinoamericano. E mi è stato detto, giustamente, una giusta osservazione da parte di Lucio, ma qui la situazione è diversa, perché qua non ci sono 20-30 gruppi etnici, e per forza di cose lì bisogna arrivare a un compromesso. E però io ho fatto notare in una risposta sul Corriere che tutto dipende, perché comunque qui a Bolzano, soprattutto credo nei grandi centri, ormai la percentuale di persone che non si identificano necessariamente con i 2-3 gruppi etnici ufficiali comincia ad essere veramente considerevole, e sarà sempre più così, perché è inevitabile, perché non si possono tenere fuori, verranno qua in qualunque modo. Io ho dato il mio contributo a Trento, ad esempio, sposato in un extracomunitario, ce ne saranno tanti altri così come me, e quindi in ogni caso il futuro di Bolzano, il presente di Bolzano è già oltre, non si può più racchiudere in queste, non voglio chiamarle gabbie perché sennò si finisce di nuovo, comunque all'ombra dei golem, ecco, non ci si può più stare all'ombra dei golem. All'ombra dei golem, bello, come titolo, l'ombra dei golem, forse addirittura se lo ristampate, all'ombra dei golem, un shutting un golem. Allora io forse avete già capito, no? Come parlano se un po' si capisce come è fatto il libro, no? Nella prima parte si vola abbastanza in alto e quindi si toccano paesaggi più larghi, perché appunto si sta in alto, il punto di vista è più ampio. Nella seconda parte invece si stringe e si viene più, diciamo, a questioni locali. Allora, il libro si intitola I miti contro i miti etnici, è un plurale. Ciò significa che qui abbiamo una pluralità di miti. Mauro, presentando il libro alla stampa quando è stato fatto, agosto, quando è Vabbè, faceva caldo, più caldo di adesso. E, operò una sorta di parata preventiva contro una critica che lui riteneva possibile, quella di aver tradito il principio della correttezza politica, perché in qualche modo qualcuno avrebbe potuto fargli l'osservazione, io per esempio gliel'ho fatta, che nella sua parte non si parla più di miti etnici, ma si parla di un mito solo, cioè del mito, in fin dei conti, del mito della radicatezza tedesca. Ci si accanisce molto su quello, mentre si tende a sorvolare su eventuali mitologie italiane. Io, proprio per prepararmi a questo incontro, mi sono ricordato che il buon Dietmar Lacher, qualche tempo fa, pubblicò un bel libro, peraltro collettivo, che si intitola Friend Game, no? Che vuol dire in realtà andare a tradire il proprio compagno, in cui si parla di Heimat. E lui affronta esattamente lo stesso tipo di problema, cioè c'è addirittura anche un capitolo che si intitola Was leisten Mythen für Südtirol, cioè che cosa fanno i miti per il Südtirol. E qui parla anche però del mito italiano, cioè non è che lui dice gli italiani sono un gruppo, diciamo, di persone rilevanti, allo sbando, quale cavolo di miti vuoi che abbiano gli italiani, cioè non contribuiscono affatto in questa deriva destrozza che, come tu hai detto all'inizio, è molto presente. Lui invece dice: no, ma guarda un po', abbiamo Berge, Blut und Knochen, italienische Mythen, cioè il mito delle montagne, il mito del sangue e il mito delle ossa, perché lui parla praticamente del fatto del confine, Tolomei, la vita d'Italia, gli ossari. Ovvero, gli italiani hanno miti alquanto ingombranti, creati apposta per, diciamo, legittimare l'appartenenza del Sud Tirolo all'Italia, dell'attuale già all'Italia. Ora, la presenza di questi miti, francamente, a me pare anche altrettanto visibile e ingombrante, tanto è vero che quando noi ci troviamo a discutere di toponomastica oppure dei monumenti, eccetera, c'è più una levata di scudi a protezione di queste conquiste colonialiste, che invece, e questo ti chiedo, non determina in realtà, non continua a determinare questa reazione, non giustifica la chiusura tedesca, e quindi non è giusto anche parlarne in modo ampio e altrettanto critico? Beh, fino adesso, a dire la verità, si è quasi discusso solo di questo e molto poco dei contenuti del libro, perché fino ad oggi le polemiche sono state sul fatto che questo libro non aiuta il dibattito a crescere, questo libro è il solito schiaffo al gruppo linguistico tedesco, in realtà non è nulla di tutto questo. Allora, innanzitutto io credo che l'unica cosa che non aiuta il dibattito sull'autonomia a crescere è il fatto di non dire quello che si pensa. Fare l'autonomia scolastica o l'immersione senza rivendicarla come una scelta strategica con un obiettivo, preferendo la strada invece di farla si fa ma non si dice. Affrontare la questione del monumento dicendo che è un monumento fascista, come ha fatto molte volte anche sulle pagine del giornale, ma assumendo con questo la possibilità, la necessità di superare questo momento. Ecco, quando il dibattito non cresce, se non si dà mai al proprio interlocutore la possibilità di discutere di qualcosa e si cerca di ottenere per vie traverse quello che si ritiene giusto, senza rivendicarlo, allora io credo che questo libro possa invece aiutare a crescere il dibattito. È vero, io ho fatto questa scelta ed è stata fatta in modo consapevole, però sappiamo anche che il libro è fatto di 4 parti, la mia dal punto di vista, diciamo così, ponderale rappresenta un quarto del libro e si chiama L'ideologia tirolese, quindi dentro mi occupo dell'ideologia tirolese. E il libro poi è fatto di una prefazione e di una postfazione in cui già i nostri interlocutori, Günter Pallaver da una parte, e Michele Nardelli dall'altra, mitigano la nostra posizione, quindi noi siamo consapevoli di esporre una posizione forte. Chi ha accettato così cordialmente di partecipare alla stesura del libro mitigano già questa posizione e aiutano il lettore a capire perché facciamo queste scelte. Nel caso specifico, io vi ho appena detto prima che quello che abbiamo cercato di individuare sono se esistono delle scorie culturali che frenano l'autonomia altoatesina. Ci sono. Io non nego, esiste un nazionalismo italiano, è fuori di dubbio, ma il nazionalismo italiano ha una matrice totalmente diversa da quello tirolese. Quello tirolese, il nazionalismo italiano non è figlio di una cultura organica, trasversale, strutturata, anche perché la composizione della comunità italiana è plurale, di diversa origine politica, di diversa formazione culturale, tant'è vero che per fortuna non ha mai portato alla creazione di un partito degli italiani come da molte parti si sarebbe voluto fare, ponendo la pietra tombale su qualsiasi possibilità di sviluppo dell'autonomia. Il nazionalismo italiano, che si sviluppa soprattutto intorno alla metà degli anni Ottanta, è figlio di una debolezza politica, cioè di una mancanza di rappresentatività forte, di un certo senso più o meno consapevole di emarginazione rispetto ai meccanismi dell'autonomia, percepito come tale, poi si può discutere se sia effettivo o meno. Tutto questo ha molto, si è quindi in quanto debolezza coagulato attorno ad alcuni simboli. Ma io non ritengo, la mia opinione è che questo coagularsi attorno ad alcuni simboli, in modo ondivago oltretutto, perché lo è stato di più negli anni Ottanta, lo è molto di meno oggi, e anzi c'è una disponibilità a trattare su molte cose, e questo sia appunto il segno che risponde a logiche che sono piuttosto di tipo politico più che di tipo culturale. Per cui metterli sullo stesso piano, cercando di creare l'illusione che esistano due nazionalismi di uguale natura che si fronteggiano in campo aperto, a mio parere è un errore. Questo come primo dato. Come secondo dato è che in ogni caso sono le eventuali scorie per la, diciamo così, per la forza d'urto e per la contaminazione col potere che ha ovviamente avuto il partito di maggioranza che ha rappresentato fino a questo momento il partito che ha potuto orientare e decidere le scelte di sviluppo dell'autonomia, perché su questo è un dato di fatto, credo. Diciamo così, l'hai sottolineato giustamente tu, quindi semmai sono le scorie, è l'impianto ideologico-culturale che riguarda il mondo tirolese a poter determinare gli orientamenti e gli sviluppi dell'autonomia. Così è stato fino ad oggi, forse non sarà più così domani. Quindi, se vogliamo capire perché sono successe alcune cose, che sono quelle che ho enucleate prima, cioè perché un'area interetnica è rimasta ridotta all'elite, perché a fronte del consolidamento delle garanzie sociali e politiche non si creano maggiori corridoi, ma anzi c'è una reazione di chiusura e si crea un partito alla destra, ecco, credo che tutto questo possa essere letto solo alla luce di una griglia culturale che, a mio parere, sempre non è possibile applicare invece ai nazionalismo italiano. Questa è un'opinione, questo è il motivo per cui lì dentro mi occupo di quello e per una volta, lo ripeto, secondo me è un atteggiamento anche, io ci ho pensato, che cosa facciamo? No, non lo mettiamo sullo stesso piano, sono due cose diverse e quindi ci prendiamo il lusso in questa sede, in cui la griglia è di tipo culturale, di occuparci di quello che riteniamo culturalmente rilevante e non di quello che culturalmente rilevante non lo è, solo in omaggio a un presunto principio di politically correct. Ok, allora io abbiamo fatto 45 minuti, la mia idea di fondo insomma molto scolastica, io arrivo a 50 minuti e poi abbandono l'aula perché non ce la faccio assolutamente più. Voi siete bravi, siete preparati, abbastanza preparati. la figlina, no, siccome c'è Lidia Menapace che ha chiesto la parola, qui tra parentesi in sala ho visto alcuni amici anche di Facebook, amici tra Francesco Palermo, Guido Margheri, poi Lucio, il 12 Andrea, che non è su Facebook. non ce l'hanno ancora. Cristo von Hartung, sì, c'è un po' di gente. Penso che magari auspico anche che loro dicano qualcosa. Io rimando l'ultima domanda che volevo farvi, che in realtà era che cosa non è stato detto ma che sentite l'esigenza di dire per muovere le persone a tirar fuori il portafoglio, che poi insomma a comprare il libro, comprare il libro, che è molto importante. Io darei la parola a Lilia Nella Pace per iniziare una conversazione diretta tra il pubblico che è qua e gli autori del libro. Va bene? Grazie. Grazie. Comincio con una così un'impertinenza. Ho sentito i nomi dei due autori del prefatore, del postfatore, ho sentito che sono persi per strada altri due autori. C'era per caso una donna tra tutta questa. Brava, bravissima. No, perché si parla di molta Sprache, di lingua materna, le madri dove sono? Non entrano nel discorso. Non voglio una risposta immediata perché le domande sono importanti. Allora, fatto una domanda molto così importante. Tabù. Il golem siamo all'ombra, volevano che rimanessimo all'ombra dei golem, ma veramente non mi piace proprio. Poi volevo dire una cosa. Io ho in mente quando parlo io sempre storia antica, quindi dell'origine di questo problema, almeno nel secolo appena finito, che di due cose si discusse moltissimo intorno allo statuto. Se si dovesse fare un'autonomia territoriale e poi vedere chi la occupava, o si dovesse partire dalla costituzione in qualche modo culturale e ideologica di chi già l'abitava. E cioè se si dovessero fare delle norme di tutela della minoranza di lingua tedesca, che avrebbe rinchiuso i sudtirolesi di lingua tedesca eternamente in una specie di riserva indiana, diciamo così, o si dovesse giocare l'incontro possibile che passa attraverso scontri, gli incontri non sono mai necessariamente solo abbracci, qualche volta anche lo schiaffone è un incontro, insomma, ovviamente, ed è sempre meglio che evitarsi, persino darsi uno schiaffone, almeno a mio parere, però non amo prenderne, capisco, però magari darmi qualche schiaffetto, gli insegnanti, insomma, se avevano una volta per tutta la volta. Purtroppo. Allora, io vorrei che riprendessimo un pochino questi temi, perché su questo poi si gioca il fatto se qui parliamo di gruppi linguistici o di gruppi etnici, perché l'altra grande questione è se si possa parlare di etnie qua o se si debba parlare di appartenenza culturale e linguistica. Io ho sentito che dopo aver detto tante belle cose ha detto gruppo etnico, per esempio, che è una vera bestemmia, perché nello statuto si parla solo di gruppi linguistici e proprio volutamente abbiamo chiamato miti etnici per... ma i miti sono etnici, non sono linguistici, perché la lingua è un fatto storico che vale per le diverse storie delle nazioni in modo differente. Per esempio, non c'è un nazionalismo italiano, ma che cosa di danno hanno fatto le torme di turisti che arrivando qui per decenni hanno continuato a dire qui siamo in Italia, si parla italiano. Allora io provo a dire, ma hai mai provato a dire in Svizzera, qui siamo in Svizzera, si parla svizzero, o in Belgio, oppure dal fatto che si parli francese dedurre che siamo in Francia, magari siamo in Canada dove i rapporti tra lingua francese e lingua inglese non sono tanto buoni. Ecco appunto, anche lì non c'è questa grande familiarità tra i gruppi più importanti, più significativi storicamente. Insomma, fare riferimento alla lingua relativizza un po'. Io considero una certa relativizzazione già un grande passo avanti. Mentre parlare di etnia, siccome è un concetto senza fondamento scientifico, puramente semplicemente, è blut ut boden, insomma. Allora, blut, benissimo. Tutto umano, il sangue umano è tutto rosso, è, dice un poeta nero che più nero non si può. Però anche il suo sangue è rosso ed è umano e non è possibile distinguere il sangue per appartenenza. E il Boden, io ci sono nato, sapete una famosa domanda, sei orgoglioso di essere italiana? Non ho fatto proprio niente, ci sono nata, anche questo orgoglio delle grandi tradizioni italiche fa parte del nazionalismo italiano, sicuramente. Che cosa ha di diverso rispetto a quello sul tirolese? Io vorrei che questa terra intanto cominciasse a cambiare il nome, prendesse il suo nome e si chiamasse Sul Tirolo. Una piccolissima meta, no? Un obiettivo modestissimo. Provate a dirlo, salta in aria tutto quanto. Ma io che mi batto perché i curdi vengano chiamati curdi e non turchi di montagna come vorrebbero i turchi, vorrei che i sudtirolesi andassero sul tirolesi e non altoatesini. Eventualmente sul Tirolo loro e sul tirolesi noi, non lo so, una roba di questo tipo. Finito, finito. Voglio solo ricordare che è possibile giocare un po' con queste cose. Io vorrei che imparassimo a giocare un po', relativizzando un po'. Cito un piccolo episodio personale. Ho ricevuto delle sberle dal nostro attuale presidente per aver detto una volta che per fortuna qui hanno vinto politicamente quelli che volevano un'autonomia territoriale e non la tutela della popolazione di lingua tedesca. E lui invece no, gli disse, ma come, ma qui, vabbè, fa niente, era rimasto indietro di un anello nella catena dell'evoluzione umana, diciamo così un po' selvaggiamente. Un'altra volta invece, mio magnago mi disse, ma perché quando le domandano cos'è lei dice piemontese non dice italiano? Dico, io dico italiano quando sono all'estero, perché devo dire, sì, sono piemontese, la mia origine regionale è quella, piemontese. Allora lui mi ricordo, Versinto, chi sono dunque questi piemontesi? Allora io, se volevo fare una brutta figura, dicevo, la Fatal Novara, quella dove gli austriaci ci hanno inflitto una terribile sconfitta, proprio che ci ricordiamo ancora adesso, anche perché è cotta e peggio della battaglia di Novara, quindi la mangiamo proprio sotto zero. Ma se io invece voglio fare buona figura con Magnago, cosa gli dico? Noi siamo i prussiani d'Italia. Ah, so, dice Magnago, vedete quali sono attenti. E così è successo. Maggior dignità. Volete intervenire su questo oppure facciamo, perché questa non è una domanda, è un'osservazione anche questa abbastanza larga, se vuoi dire qualcosa di relazione? Una cosa assolutamente, perché se no me la dimentico ed è importantissima, perché devo fare un mea culpa. Altre voci. lo farò rapidamente, è veramente vergogno, ha fatto benissimo, mi dispiace poi di non riuscire a rispondere a tutto questo, perché è importante. Quando gli autori, autrici, ma non solo questo, che è già abbastanza scandaloso, e già fa vedere come il cervello... No, il cervello... Sì, ma perché così? Perché c'è un'induzione proprio, perché è ovvio che uno allora, poteva pensarsi, e quindi no. Da altre parti del corpo. Sì, vabbè, penso... Comunque, sempre collegato al cervello solo. E no, non solo, quello sarebbe anche il minimo dei problemi. Il fatto è che io ho scritto un'intera parte, non so quante pagine siano, senza manco rendermi conto che la maggior, questi miti di cui parlo sono tutti miti patriarcali, sono tutti miti maschilisti che hanno oppresso. E io non lo so perché poi in antropologia purtroppo si finisce sempre per mettere da parte il femminismo, perché il femminismo in antropologia rende meno obiettivi, però veramente qua è una mancanza gravissima e mi dispiace verso tutti, non solo verso le donne, ma verso tutti, anche verso me stesso, non ho fatto bene il mio lavoro. Comunque gli ho rubato un appunto adesso a lui, scritto, prima è stampato, quindi non ha scritto lui, ha scritto archetipi maschilisti e patriarcali che dividono i popoli e fomentano la violenza contro le donne, quindi va bene, c'era un terreno sensibile per recepire la critica. C'è qualcuno che vuole, faccio anche da portatore di microfono, se qualcuno vuole intervenire ulteriormente. Anche un po' in modo aggressivo, insomma, loro volevano provocare. Aggressivo, track! Ho usato apposta questa parola. Non so se vuoi urlare, non so. Dunque Stefano, tu hai iniziato il tuo intervento prima dicendo tutti amiamo questa terra, ci mancherebbe, tutti amiamo questa terra, poi glissato da un'altra parte. Non so quanto peso volevi dare a questa tua affermazione. Ti posso assicurare che ci sono moltissimi italiani che non amano affatto questa terra, tantissimi. Ci sono un sacco di italiani che la disprezzano, e la disprezzano non solo per gli aspetti culturali che ritengono storici, per le scelte storiche che sono state fatte, addirittura per il paesaggio, per come è fatta. Ci sono anche delle posizioni del tipo, ma Non dite che non l'avete mai sentita. Ma le montagne chiudono le visioni, le visuali, non si riesce a guardare oltre, siamo sempre chiusi, eccetera. Ci sono un sacco di italiani, Stefano, che questa terra non la amano e la disprezzano. Non la conoscono e perciò la disprezzano. D'altra parte, questa cosa qua si vede chiarissimamente nel vostro libro. Tu nella tua parte dici che questa è una terra dove vige un fondamento che non può essere, che è sbagliato, il fatto che questa terra si sia organizzata per gruppi e non per individui è una cosa che la colloca, come dire, nella arretratezza culturale, nel non sviluppo, nella miopia, nella chiusura, eccetera, eccetera. Mauro in un certo senso completa quest'opera incaricandosi proprio di bastonarla, questa realtà, cioè questa realtà, diciamo adesso no, lui, tu la dici più cortamente, ma fa schifo questa realtà tedesca, guardate che questa realtà tedesca fa schifo, è chiusa, è gretta. È sottosviluppata, non è riuscita ad evolversi, non riesce ad andare avanti. Questa posizione, e lo dico al pubblico, questa posizione, questo atteggiamento è uno dei maggiori fattori che portano la responsabilità della marginalità nella quale il gruppo italiano e gli italiani in questa terra sono finiti. E poi concludo con un'altra cosa, Stefano, che mi è parsa, che anche lì hai detto, tu ogni tanto dici delle cose con tono molto allegro, non so quanto seriamente prendersi. Okay. Beh, sfasciamo tutto, che si sfasci tutto. Sì, la prima cosa che hai detto, sì, sfasciare tutto. Ma no, vabbè, se vuoi te lo preciso. Quindi tu volevi dire, hai detto sfasciare tutto, ma no, non sfasciamo tutto. No, era così. Mi sembrava, come... dicessi, beh, che male c'è? Sfasciamo tutto, sì. Cioè noi veniamo da una condizione, sì, nella quale ci si stava per prendere, sì, e in parte ci si è presi, abbastonate sul cranio, siamo riusciti con un patto, chiamiamolo così, a deporre le armi, a non bastonarci, a cercare di creare delle condizioni nelle quali si possa crescere, e in questa condizione, in questa terra si può crescere, e Stefano parte, arriva da Trento e dice, ma sì, sfasciamo tutto. Sì. Mi sembra irresponsabile, Stefano. Francamente mi sembra irresponsabile. Volevi già rispondere andando? Sì, dai. No, perché sono il moderatore. Per... E faccio il moderatore. Sì, quindi, sì, e quindi adesso moderiamo. Le posizioni di Lucio di Andrea sono state espresse chiaramente, sono anche, diciamo, anche note. Una reazione di stile Twitter, cioè molto puntuta e... Ma ovviamente delle cose che lui ha detto adesso, che questa terra fa schifo, nel libro non c'è una sola parola. Questa è un'interpretazione sua. Io credo una cosa, credo che... ribadisco quello che ho detto prima, cioè se c'è una cosa che non fa crescere l'autonomia è quella di in qualche modo non dirsi le cose. Penso che l'abbiamo fatto cercando di dirle in modo ragionato, portando degli argomenti, poi naturalmente alla scientificità, tra virgolette, che possono avere tutte le cose di questo tipo, che è semplicemente l'applicazione di un metodo, la presentazione dei risultati che poi possono essere discussi. Credo che se proprio vogliamo restare nelle punzecchiature, se c'è qualcosa che non fa crescere il confronto e che non fa crescere una parte del gruppo linguistico italiano che questa terra la ama e come, e le sue montagne in primo luogo, siano certe posizioni assunte anche nel recente passato da esponenti istituzionali, da, diciamo così, mi viene in mente una cosa, da sindrome di Stoccolma etnica, Romano Viola, oppure in parte anche le tue, direi. Non credo che queste siano utili in alcun modo per cercare di uscire da certi schematismi. Quindi quello che abbiamo, che io almeno nella mia parte ho cercato di fare, è di capire quali sono i freni che impediscono oggi all'autonomia altoatesina di imboccare strade nuove. Strade che stanno nel suo DNA, nelle possibilità che stanno dentro lo statuto e che pure ancora c'è una forte resistenza a imboccare. Solo questo abbiamo fatto. Ovviamente non mi dilungo, ho già detto prima perché secondo me in questo momento in cui maggiore forse è la disponibilità del gruppo linguistico italiano di contaminarsi, usiamo questo termine brutto, con l'autonomia, di assumersi responsabilità, di credere ad uno sviluppo armonioso del posto in cui tutti viviamo, mi dispiace vedere che a fronte di questa disponibilità in questo momento, non vorrei mai che questo momento magico in qualche modo fosse frustrato dalla incapacità delle istituzioni di rispondere in tempi rapidi a questo desiderio di essere coinvolti nelle dinamiche autonomiste. E credo che una parte di questi freni siano ancora fortemente di tipo culturale. Ed è ovvio che debba parlare del gruppo linguistico tedesco, che manovra molto più del gruppo linguistico italiano la barra dell'autonomia. Io dico una cosa, c'è una parte del libro dedicata ad Andrea Sofer, di cui siamo stati ubriacati lo scorso anno. Dico, sarebbe Andrea Sofer è, io lo scrivo nel libro, ma non l'ho mai sentito dire lo scorso anno. Un po' ci ha lavorato Christoph Hartung von Hartung, che qui sta facendo un tentativo di decostruire alcune cose. Ma se esiste un eroe antimoderno, è proprio Andrea Sofer, attorno a cui non si potrà costruire nulla di comune, assolutamente nulla. È uno che è morto in modo straordinariamente coraggioso per la propria terra, per liberarla dai francesi, ma è morto, ricordiamoci per che cosa c'era nella Costituzione franco-bavarese del 1808. C'erano le cose su cui si costruiscono le democrazie oggi e per cui si era sollevata l'intera Europa, almeno all'inizio, credendo al messaggio di Napoleone. Io credo che se un messaggio politico forte sarebbe Durwalder che un giorno si alza e dice: il mio eroe non è Andrea Sofer, il mio eroe è Josef Mayr-Nusser. Un eroe sudtirolese fino alla radice, filo austriaco, perché era filo austriaco e quindi anche accettabile da qualunque, diciamo così, anche dalle frange più radicali, diciamo, del conservatorismo tirolese. Ma era uno che è morto esattamente, è morto contro, lo sapete tutti, è morto contro perché c'è stata un'assunzione precisa di responsabilità individuale, non collettiva, fino all'ultimo momento della sua vita, ed è morto per i valori in cui tutti oggi si riconoscono. Eppure Mayr-Nusser resta una figura completamente marginale nell'immaginario sudtirolese. Sarebbe semplicissimo a farlo cercare di costruire qualcosa di... quello è un po' è un luogo, un simbolo attorno a cui tutti si possono riconoscere. Questo non accade. Se non accade è per una precisa scelta. Hofer è l'eroe che muore per Dio, Padre, Imperatore, gli idoli collettivi. Mayr-Nusser è l'eroe che muore per il proprio credo e le proprie convinzioni individuali. Questo ha un effetto destabilizzante sul sistema e Mayr-Nusser per questo motivo non diventerà mai un eroe, l'eroe del Tirolo. Bene, altre voci? Sì. Benacco il popolo che non ha bisogno di eroi. Meglio ancora. Ecco, io discendo con Lucio, sono un po' parte del corso di quel piccolo gruppo di italiani che ama l'Alto Adige e ama la montagna. Ecco, porto una mia piccola esperienza di montagna. Io ho l'abitudine di spendere la domenica nelle gite sociali del CAI. C'è stato pochi anni fa, nell'Alpen Verein, un problema di organizzazione e diversi soci dell'Alpen Verein si sono riversati nelle gite del CAI. Accettati benissimo, chi voleva parlava in tedesco con loro, loro parlavano in italiano, nessun problema. Si sono impegnati, hanno anche ricevuto il premio di partecipazione, nel senso che sono stati quelli che hanno frequentato di più le gite. E durante una castagnata un socio anziano durante il tre mi si è avvicinato e mi ha detto quante cose brutte mi hanno raccontato sugli italiani. Ecco, io chiudo dicendo che noi ne usciremo quando smetteremo di pensare a noi e loro e ci sarà soltanto il noi, come diceva Alessandro Langer. Grazie. Grazie. Qualcun altro? Sì? Ma secondo me speriamo che sia adesso come dice lui, un Sternstund, perché secondo me c'era già nel 80 quando è stato introdotto questo questa dichiarazione obbligatoria firmata da ogni persona che deve dire io sono tedesco, io sono italiano, io sono nativo. Ecco, io sono mistilingue e cosa dovevo dire allora? Primo. Secondo, c'è stato l'assessore Zelger che dice è chiaro, vero, trennen, questo pezzo fastidio. Allora io come faccio a mich trennen? Devo dividere fisicamente. Bisogna essere molto tecnici. Ecco, quindi io penso che speriamo veramente che ci sia un'altra stella, che ci sia ancora questa. Nell'80 c'era, perché io insegnavo alle 150 ore e vi assicuro che gli italiani, io facevo insegnavo tedesco, che erano molto interessati alla lingua, alla cultura tedesca. Ho fatto un ciclo di lezioni sulla storia e erano interessatissimi. Poi c'è stato questo censimento e poi è tutto andato a rotoli. Non ancora, speriamo che ci sia di nuovo la Sternstund. La Sternstund potrebbe essere il censimento del 2011, dove finalmente sarà anonimo questo censimento. E io non devo scrivere, io Walter Stauler sono tedesco o sono italiano, io cosa posso dire? Sono tedesco e italiano, però non posso dire uno, no? E finalmente uno si possa dire, a me mi piace l'Italia e sono italiano, no? Posso dire, beh, se c'è proprio bisogno di fare sta roba, no? Mi piace più l'Italia e metto la crocetta sull'italiano, no? Quello, e secondo me quella sarà la, finalmente che si esce da sta gabbia etnica, come insomma l'abbiamo chiamata già nell'80, no? Perché io, come, cioè io veramente, adesso vi dico, veramente io ho sofferto per questa cosa qui, no? Ecco. Quindi adesso io ho detto e spero fermamente che questa nuova Sternstunde arrivi. Aspettiamo Sternstunde, nell'attesa se qualcuno vuole intervenire, bisogna che ci casca addosso lo Sternstunde. Non avevano paura, no? La cosa di cui avevano più paura i gatti era che gli cascasse la Sternstunde sulla terra. No, io ho detto solo che ma speriamo che vada meglio. Altri interventi? Io così organizzativamente sì, perché pensavo insomma verso le 7:30 di chiudere, no? Poi tutti hanno fame. Io vorrei entrare nella discussione molto brevemente perché il livello culturale è alto e non so se sto... Esatto. Ad ogni modo, io intanto vorrei portare una breve esperienza, cioè una breve considerazione personale, e credo che non ci sia veramente questa diffusione dell'odio o comunque questo grande gruppo italiano che non ama l'Alto Adige. Sinceramente il fatto che qualcuno dica, qualche ragazzo dica ah, queste montagne, siamo un po' stufi, potrebbe dirlo anche che sono un tedesco che ha passato 10 anni a Vienna, si è stufo di andare a vedere montagne, ha visto come funzionano le metropoli europee e questo senso di chiusura ce l'ha anche uno di lingua tedesca che è stato fuori a studiare. La poca conoscenza del terreno altoatesino, del territorio altoatesino di noi giovani è parificato. Io ho mio fratello che va in giro per le montagne a lavorare e gli dico: ma dove sei stato? Vicino a Bersanone. Ma dove? Ah, non mi ricordo. E pensavo fosse una cosa solo degli italiani. Poi ho un collega che è della Valpassiria, al lavoro, perché io lavoro in provincia, e gli ho detto: domani dove vai? Vado vicino a Brunico. Ma quanti chilometri devi fare? Ah, non sono mai stato. Quindi la poca conoscenza è dovuta al fatto che molti ragazzi magari girano poco in Alto Adige, non è così significativo. Poi il superamento di questo diciamo, gabbie etniche o questo problema etnico, oltre c'è il lato culturale che è forte, però io mi chiedo, non c'è anche molto peso del fatto che superare l'autonomia, diciamo, assecondare i movimenti sociali che ci saranno in Alto Adige nei prossimi anni, perché la commistione fra italiani e tedeschi è sempre più forte. La mia ragazza è tedesca, i nostri amici sono tutti coppie di mistilingue, tantissimi, veramente. Ci sono sempre più persone che vengono da fuori, in Alto Adige le cameriere sono tutte dall'est e molte si sposano proprietarie dell'albergo, i figli avranno lo stesso problema. Quindi la storia va alla sua velocità e la politica può decidersi più o meno di assecondarla, ma non può cambiarla in questo caso. Non può essere il fatto che diciamo, rivedere il tutto potrebbe essere prima o poi avere meno soldi, avere meno leggi per noi, meno autonomia. Cioè, noi non cavalchiamo questa cosa della gabbia etnica, spesso i nostri politici, per tristi motivi elettorali, perché se no anche il PD, penso, o comunque la sinistra, avrebbe riscoperto l'hunger molto prima, se non dovesse fare i conti a ogni elezione con il dipendere, cioè dover, diciamo, un po' inchinarsi alle spoppe per poter avere il sindaco, per poter avere quello, quell'altro. Perché il PD in queste cose è pochissimo progressista, cioè prima di cavalcare queste cose ci pensa sempre mille volte. Se c'è qualcuno del PD che vuole. Grazie per l'invito. Ci invitiamo a vicenda a vedere l'autonomia dell'Alto Adige con un aumento di democrazia della mia Repubblica Italiana. Se incominciamo a vederlo così, allora alcune cose, alcuni strumenti, gli strumenti vanno rispettati, quando gli uomini riescono a darsi degli strumenti, perché sono obbligati a esaminare il problema, bisogna poi rispettare gli strumenti, non distruggere gli strumenti, si cambiano solo con altri strumenti. E quindi non è che si distrugga l'autonomia, diciamo rafforziamo ancora la democrazia all'interno del nostro paese, perché il nostro paese dovrà fare i conti con la multiculturalità di tutte le sue regioni, anche della provincia di Bolzano. In questo senso, se noi vediamo l'autonomia dell'Alto Adige come un aumento, un ispessimento della nostra democrazia italiana repubblicana, allora troviamo anche meglio i rapporti verso l'altro gruppo linguistico. Noi abbiamo sempre preferito parlare di gruppi linguistici, per mettere in piedi gol e miti, come dite voi. Grazie. Sì. Certo. Buonasera, io faccio un passo indietro, non ho letto il libro, mi dispiace. Prendo un 4, quindi. Anzi, se posso suggerire, se poteste leggerlo e suggerire, mettere la pulce nell'orecchio all'editore di tradurlo in tedesco, di farlo tradurre in tedesco, vi prego. Ecco. Volevo dire, ho trovato all'inizio della presentazione del libro un pochino destabilizzante questo paragone che è stato fatto tra il Canada e la realtà sul tirolese. Ho trovato un pochino troppo ampio come realtà culturale, storica, geografica. Allora, piuttosto che sentire generalizzazioni di questo tipo, preferisco parlare di mito ed identità. Perché cioè, sono realtà completamente diverse e si cade in delle banalizzazioni che sono quelle che poi si sentono. Faccio un esempio che sempre, abbiamo sempre all'orecchio, siamo in Italia, si deve parlare italiano, cioè sono due generalizzazioni che io metto sinceramente un pochino sullo stesso piano. Parlo da ignorante, sono fresca dell'Alto Adige, vivo qui solo da 3 anni e cerco di capire la realtà e io parto dal particolare, sinceramente. Ma se continuiamo a rimanere sul particolare, purtroppo sembra che sia sempre utopico tutto, non si può più parlare di proporre qualcosa di nuovo. Io suggerirei... No, ma nel libro non c'è solo il Kant, ho parlato del Kant, semplicemente è una delle tanti esempi che ci sono, ovviamente. Ma bisogna fare dei confronti, a parte che come antropologo per forza di cose faccio dei confronti perché considero l'umanità come un'unità, non esisterebbe neanche l'antropologia se non si facesse un confronto, perché uno va sul posto, poi fa un confronto con altre realtà, vede quel che c'è in comune, quel che non c'è in... invece è diverso, però se no vuol dire il vento io non lo posso far venire dentro in casa, se apro la finestra è più probabile che ci entri. Quindi se io dico siamo in Alto Adige e servono strumenti concettuali locali per comprendere il locale, non se ne viene fuori, perché non c'è aria fresca, perché non ci sono altri confronti da fare, perché sembra che quel che è stato e quel che è quel che sarà. Invece non è necessariamente così, perché lo stesso Alto Adige sta cambiando talmente rapidamente, e lo sta facendo, che si diceva, che è inevitabile usare categorie del globale se l'Alto Adige è già in un processo di globalizzazione. E ne approfitto, che mi sono segnato una cosa. Io non volevo dire distruggere l'autonomia, ovviamente, perché io sono molto autonomista e anzi, come segnalavo, mi sono scritto giù qua, io sarei a favore dell'Euregio da Trentino, anzi io aggiungerei anche il Bellunese, Foralberg, che mi ha sempre fatto pena i poveri foralberghesi. Toscano. Anche sui Pirenei, anche tra l'Alsazia e Lorena. Sì, esatto, ma le regioni europee, esatto. Perciò io sono assolutamente a favore dell'autonomia intesa proprio in questo senso qua. Poi, un'altra cosa, il signore lì, quando le dice noi, invece di noi e voi, ed è esattamente l'idea del libro, poi io non vorrei che per caso, nel futuro, si finisse per identificarsi non noi contro altri, tipo gli extracomunitari o i musulmani, eccetera, eccetera. Ovviamente, esatto, no, lo so che lei non vuole, però stiamo attenti a quello che siamo noi, perché sembra sempre che serva una minaccia, un qualcosa, un obiettivo disperatamente da raccogliere per potersi sentire noi. E poi la cosa di... veramente, Lucio, io ti voglio bene, ma... certe volte mi sembra di sentire, sempre per andare sul globale, di nuovo il tabù dell'olocausto, ti giuro. Quando ti sento parlare, io è come se sentissi certi israeliani che non riescono ad andare oltre i problemi del presente che hanno e che saranno anche problemi del futuro se non si danno una smossa, perché c'è questa incredibile ombra, sempre cioè una di ombra dell'olocausto, quel che è stato, quel che potrebbe essere, cioè la paranoia del secondo olocausto. Se tu insisti con questo dire non possiamo prendere la cosa alla leggera, perché c'è questo terrore, il terrore del passato, quel che è stato, mamma mia torneremo alle bombe, mamma mia torneremo agli scontri, io non ho ovviamente inteso il distruggere in quel senso, tanto che mi riagganciavo a un'espressione che aveva usato Gabriele, è per quello che ho buttato lì, era un andare oltre, non era andare oltre nell'Euregio ad esempio, ma non si può continuare a tenere questa spada di Damocle, questo ricatto psicologico e morale di quel che è stato per evitare che siano dei cambiamenti, non si può, è irresponsabile, questo è irresponsabile, il passato non è per forza il futuro. Non si può chiamare lo sterminio olocausto, no? Giusto, Shoah, eccetera. Sì, non c'è dubbio. Perché se no, no, ma era per farsi intendere. Vedi comunque le parole sono importanti, non c'è alcun dubbio. parole, la assolutamente. Allora, di come la parola di linguistica è citare la solitudine, non il fatto che sia un simbolo. Non ho capito. Cosa ho detto? No, perché non so, sì, sì. Resistenti italiani non sono stati così soli, perché la resistenza in Italia è stato un altro fenomeno, no, che nel mondo di lingua tedesca. Ma io non... Sì, sì, beh, certo. Quindi sono d'accordissimo che bisognerebbe riesumare Magnus. Sì, il problema appunto di Magnus è ulteriore, è quello che lei dice, cioè la storia di Magnus è quasi un unicum. Ma perché non facciamo noi del gruppo di lingua italiana? Ecco, l'abbiamo già beatificato. Io storicamente volevo proprio a questo proposito, anche per chiudere, perché io diciamo mi occupo, cioè il mio interesse principale, diciamo forse anche unico, perché sono molto limitato, però uno deve, è osservare quanto la comunicazione che si anima all'interno di un gruppo linguistico, per esempio anche sui media italiani, riesce a toccare la comunicazione che si sviluppa, diciamo, dall'altra parte. Noi penso che questo sia un dato di fatto assolutamente assodato, non c'è bisogno di ricerche, diciamo, quantitative di Günter Pallaver per dimostrarlo. Viviamo in un regime mediatico di completamente diviso per quanto riguarda proprio l'elaborazione, cioè non c'è mai qualcuno che su un giornale italiano citi o discuta tesi che vede su un giornale tedesco e viceversa. Addirittura esistono divisioni all'interno dei giornali italiani stessi, per cui c'è una specie di tabù, per cui quello che scrive l'Alto Adige rimane lì e quello che scriviamo noi rimane lì e nessuno poi si parla, tranne in occasioni come queste, che sono anche fondamentalmente rare. Io mi chiedevo, lì c'è non voglio sollecitare una risposta, diciamo, dall'angolo della minoranza, sono due storici di lingua tedesca. Mi chiedo, nel gruppo linguistico tedesco questo tipo di dibattito è stato fatto, anche autocritico, molto, molto forte sui presupposti, diciamo, così, diciamo, quelle scorie, dei miti, dell'ideologia tedesca. Il gruppo linguistico tedesco l'ha fatto ampiamente, abbiamo citato Alexander Langer, ma possiamo citare Leopold Steurer e tanti altri autori. Questo è molto minore dal nostro canto, ma mi chiedo, in proiezione, il gruppo linguistico tedesco, o un lettore di lingua tedesca, potrebbe avvicinarsi a un testo come questo dicendo, cavolo, questa è un'occasione per discuterne effettivamente tutti, e vale la pena occuparsi di quello che dicono gli altri sul nostro sistema, sul sistema in generale, e dobbiamo porlo all'attenzione di una riflessione pubblica, oppure ancora una volta, diciamo, si rinnoveranno gli automatismi di sempre, per cui hai scritto un libro che critica sul Tirolo, vabbè, insomma, cavoli i tuoi, insomma, trovati i tuoi lettori e sii contento se li trovi, a noi non ci interessa assolutamente, no? Perché questo poi, in fin dei conti, è quello che succede, ed è la norma. È la norma assoluta ed è estremamente frustrante, perché uno si illude di, appunto, diciamo, costruiamo un discorso pubblico condiviso, e invece al di là delle terribili ritualità che sempre si verificano, non succede assolutamente nulla. Questa poi è la verità, no? Però se qualcuno vuole rispondere, bisogna rispondere, no? Due risposte! Dai, dai! C'è una stufa lì. Due risposte. Sì, grazie. Magari chiedere un attimino questo. Allora, anch'io non ho letto ancora il libro e mi baso su quello che voi due avete molto bene esposto, e innanzitutto vorrei, cioè, non viene dall'altro, ma viene da, cioè, tutti siamo altri, no? Questo per me è fondamentale, cioè, nel senso che anche noi siamo altri, no? E identici allo stesso tempo, perciò io eviterei in modo assoluto, e questo mi sembra il libro può insegnare quello che io mi sembrava di captare, un'attenzione semantica, semiotica, e un'attenzione, come dire, anche alle sfumature, no? Che poi magari la scrittura, per quanto io ho capito anche dalle critiche che ci sono state mosse, magari sia andato talvolta fuori dal seminato, questo va da sé in ogni libro, è chiaro, no? Però quello che io colgo da quello che voi due avete detto è che è una forte delusione, è come un coming out, no? Di qualcuno che ama qualcosa e vede che non... Bravo. Che non nasce o che non si sviluppa nel modo nel quale lui vorrebbe che lo facesse, no? Che è il contrario dell'odio. Appunto, no? È come dire, è una delusione, no? Cioè io vorrei assolutamente evitare il concetto del disagio, perché è troppo, ma in fin dei conti è così, no? E pertanto è un aspetto molto umanistico. E quello mi sembra, cioè il libro, o quello che io ho sentito, no? Mi sembra un testo che abbia un forte appeal character, no? Cioè, quello dice in sostanza, noi potremmo, saremmo tutti maturi, e la dialettica dell'illuminismo, no? La dialettica Hoplon, saremmo tutti maturi per il take off di questa società, però come mai non funziona? E allora vuoi, più che altro poi una domanda, no? Cioè, voi in sostanza siete più pessimisti o più ottimisti? Questo davvero mi interesserebbe sapere, no? Ok, brevemente questo appello, nel mondo tedesco questo libro non potrebbe o non potrà suscitare, diciamo, interessi o dibattiti. Io francamente posso solo controbattere con un esempio. 10 giorni fa nell'Aula Magna dell'università è stato presentato dall'assessora alla cultura tedesca, non in lingua tedesca, per essere per quello, è stato presentato un libro scritto a più mani, una raccolta di saggi, intitolato Südtirol / Europa. E lì non c'è un, diciamo, non c'è un contributo, non c'è un saggio che parli, non so, che l'Europa o problematiche europee o che la convivenza o che il gruppo italiano in questo paese, in questa regione, in questa provincia abbia, possa giocare un ruolo, o che questo incontro tra le culture potesse avere una valenza, un valore. In questo senso sostiene le posizioni di Fattore, che dice che il gruppo etnico tedesco, non, o il gruppo linguistico, chiamiamolo, non si interessa di queste, tanto di queste cose. Perciò io penso che le due realtà siano ormai troppo consolidate, nel senso che vanno per vie traverse, o per vie diverse, non traverse, per vie diverse, una accanto all'altra, una con una volta con una velocità più sostenuta, l'altra più lenta, e che questo sia al momento il, diciamo, il prevedibile futuro. Questo è il problema, che poi questa, diciamo, questi miti, questi chiamiamole come le vogliamo, però danno una forza incredibile al gruppo etnico tedesco, no? Al gruppo linguistico tedesco, e anche e soprattutto di fronte alla globalizzazione, perché è già quasi un mito questo slogan, i bavaresi, perché sono erano adesso un po' più all'avanguardia era il land più moderno, più aperto, più ricco della Repubblica Federale Germanica. Lo slogan era, o la spiegazione era, laptop und lederhose, cioè vuol dire computer portatile e braghe di cuoio. Tutte queste cose, queste due cose insieme, sono una, diciamo, sono al momento una coppia vincente. E il modello, diciamo, al quale si ispira, diciamo, il gruppo maggioritario in questa provincia è proprio questo, no? E questo viene anche non solo alla Baviera, ma anche nel Tirolo, nell'Austria, eccetera, eccetera. In questo senso sarebbe, per un politico sarebbe suicida dire togliamo da parte questa e facciamo un'altra cosa, no? Poi del resto sono un'altra cosa che è proprio una critica. Andreas Hofer, che è stato celebrato, eccetera, eccetera, se vado un po' alla lontana, 20 anni fa circa c'era Macek, guarda, lo storico di Geismayer della guerra rustica, eccetera, e abbiamo parlato e lui ha detto, caro mio, caro figlio giovane, Bohème, ancora presente, caro giovane, bohemica non leguntur, cioè le cose cieche non si leggono, e io dico la stessa cosa, italica o teutonica non leguntur, perché su Andreas Hofer nell'anno scorso sono state pubblicate metri cubi di testi che spiegano, che demistificano la figura, la lotta, la guerra del 1809, e semmai un'altra discussione che proprio non qua in Alto Adige, è a Trento, nel Trentino, che hanno Palizza Tocet e quell'altro signore, anche dell'Ai Tocet, o comunque che proprio loro hanno descritto, messo su un Andreas Hofer che noi neanche nel 1984, 25 anni fa, è quasi un Andreas Hofer del 1950, un'immagine di Hofer del 1959, di 50 anni fa, no? Anche se poi dobbiamo anche questo, si deve capire, perché i trentini, detto fra noi, hanno una FIFA matta, sì, per la loro autonomia, perché viene qualche tipo galante dal Veneto, no? Eccetera, eccetera, voi autonomia, via, soldi a noi, eccetera, eccetera. Questi vogliono costruire un'identità, un mito o un mare di miti, no? E in questo senso, io adesso vivo, neanche io l'ho detto, però quello che è stato, mi è stato, che ho capito qua, è un po', ha un puntaglio un po' troppo breve, però lo leggo e vi dico quello che penso. Ma speriamo esca il film del libro, così una battuta brevissima, tipo saluto e consiglio per l'acquisto, che sulla, se siete ottimisti o pessimisti riguardo allo sviluppo generale. Esatto. No, spero solo di non morire pensando che qualcuno mi vorrebbe più, mi volesse ancora costringermi a trovare un accordo politico con Seppi piuttosto che con Julia Unterberger, ecco. Spero che arriverà il giorno in cui questo è il sogno che avevo quando avevo 20 anni ed è quello che continuo ad avere oggi. No, è una sola e spero che sia incisiva. No, volevo dire riguardo l'ottimismo e pessimismo che sono ottimista perché ritengo che questa coppia qui davanti non siano Romeo e Giulietta. Ecco. Bene, grazie, un grande applauso.